Rassegna Stampa Europa. Buongiorno e buon sabato da Giulia Crivelli. Benvenuti alla nostra rassegna stampa di giornali europei e non solo, ma soprattutto su temi europei. E come potete immaginare, anche questa settimana vogliamo, dobbiamo, è necessario occuparci di immigrazione. È veramente il tema europeo del momento, non solo perché tutti i paesi europei sono coinvolti, ma perché si auspica sempre più spesso, e devo dire con sempre minor successo, che ci sia una soluzione europea o che comunque se ne discuta a livello europeo, ma se ne discuta e poi si trovino concretamente delle soluzioni, perché di summit ne abbiamo visti, come del resto noteremo anche in questa rassegna. Ma comincio allora da un editoriale apparso su Le Monde, che internazionale ha tradotto, che si intitola Gli ultimi giorni dell'Europa, e inizia così: non si sa più che termine usare. Sotto lo shock dell'ondata migratoria, l'Europa si smembra, si disintegra, si decostruisce. A meno di un sussulto da qui al prossimo vertice europeo di aprile, gli storici individueranno nel periodo 2015-2016 l'inizio della decomposizione dell'Europa. Diranno che è stato un bel progetto avviato a metà del Novecento e conclusosi nel primo quarto del XXI secolo, che lo spirito europeo ha soffiato con il sostegno dei popoli per più di mezzo secolo prima che il progetto si spegnesse, divenuto ormai impopolare, vittima della sua incapacità di rinnovarsi, minato dall'assenza di leader all'altezza. Non è un vedere il bicchiere mezzo pieno né un editoriale ottimistico, però insomma cerchiamo di cogliere questo spunto, questa, naturalmente sperando che quello che dice Le Monde non si avveri. Naturalmente l'articolo prosegue e cerca di riprendere anche i casi più gravi che indicano questa parziale apparente disintegrazione dell'Europa. Ma sempre a proposito di Europa e di vertici, ce ne sarà uno in aprile, ma ce n'è stato uno il 7 di marzo, e allora Vox Europe, l'altro sito che citiamo sempre, l'indirizzo è www.voxeurope.eu, che fa questo meritevolissimo lavoro di monitoraggio della stampa non solo europea su temi europei e soprattutto di quella europea ma in lingue che magari sarebbero difficilmente così raggiungibili per noi senza naturalmente l'ausilio di un traduttore, e a volte produce anche degli articoli in proprio come in questo caso, e vi leggo la prima parte perché in questo caso si focalizza proprio su questo vertice che c'è stato il 7 marzo tra Unione Europea e Turchia, che sapete così tante polemiche ha scatenato, primo perché la Turchia è sembrata ricattare l'Europa chiedendo ancora più soldi per accogliere in qualche modo o almeno non respingere gli immigrati, soprattutto quelli siriani, e poi siccome il vertice cadeva proprio nei giorni in cui il presidente portava avanti l'ennesimo giro di vite contro la libertà di stampa, ci sono state tante polemiche. Il premier Renzi ha addirittura cercato di legare questa apertura a nuovi aiuti a una promessa di maggiore libertà di stampa. Poi cosa succederà vedremo. Comunque l'articolo lo trovate appunto sul sito voxeurope.eu e si ripercorrono un po' i risultati molto scarsi di questo vertice e sì, ve ne leggo una parte, soprattutto su quello che erano le aspettative dell'inizio. L'obiettivo era importante. Ankara si è affrettata a alzare la posta, visto che Angela Merkel e gli altri europei avevano bisogno del suo aiuto. Facendo credere che avrebbe fermato le partenze dei profughi, la Turchia ha illuso gli europei, ma era evidente che non sarebbe riuscita a fermare nessuno. I numeri parlano chiaro. Mentre nel 2015 almeno 885.000 profughi di varie nazionalità hanno attraversato il mare Egeo per andare in Grecia, nei primi due mesi di quest'anno più di 120.000 sono passati attraverso le maglie troppo larghe dei controlli turchi, controlli che dovevano essere avviati dopo il vertice sui profughi del 29 novembre 2015. E torniamo un po' all'articolo di Le Monde, dove si parla appunto di questi di tanti vertici, anche pieni di buone intenzioni e che durano nella notte, vediamo i leader molto impegnati e poi nella migliore delle ipotesi si concludono con dei buoni propositi, nella peggiore non si concludono nemmeno con quelli ma con un nulla di fatto. Comunque vedremo da qui appunto ad aprile che cosa succederà. Un altro articolo sempre sulla questione dei rifugiati, degli immigrati, perché poi naturalmente qui le parole sono sempre importantissime, però si cerca di fare questa distinzione, forse anche un po' odiosa, potremmo dire, tra i migranti economici, quelli che scappano da situazioni di povertà, dai rifugiati politici, quelli che scappano da una situazione di repressione o di guerra, e poi ancora i rifugiati in generale. Allora, sempre sul tema, la Süddeutsche Zeitung ha ripreso a sua volta un articolo del Financial Times che ipotizzava che l'Unione Europea stesse per creare un'agenzia federale per il diritto di asilo. Questo è notizia di pochi giorni fa, un'anticipazione appunto del Financial Times. In realtà questa proposta, se verrà esaminata, potrebbe essere esaminata il 17 e il 18 marzo al Consiglio Europeo, quindi vedremo se questa indiscrezione di Financial Times corrisponde poi a verità. Comunque, scrive la Süddeutsche Zeitung, la posizione della Commissione europea sembra rispondere alle preoccupazioni di Italia e Germania, due dei paesi dell'Unione, a considerare superato il regolamento di Dublino, che tra le altre cose impone ai paesi in cui sbarcano i migranti l'esame della richiesta di asilo, una regola che risulta sempre meno adatta a assorbire i flussi di migranti in caso di grande affluenza, come è successo in passato in Italia e sta succedendo in queste settimane in Grecia. Tornando un attimo a quel vertice, insomma, non felicissimo, ecco, potremmo dire così, di settimana scorsa, del 7 marzo, tra UE e Turchia, anche El País aveva criticato duramente l'atteggiamento, naturalmente, di Erdogan, con appunto quello che è sembrato a molti un ricatto, e poi la reazione dei paesi europei che, anziché forse con la diplomazia necessaria, ma dire tra le righe non accettiamo ricatti, in realtà hanno nicchiato di fronte alle nuove richieste della Turchia. Passiamo a un altro argomento di cui ci siamo occupati nelle settimane scorse e di cui continueremo a occuparci, ed è quello della Brexit, perché David Cameron ha rilasciato un'intervista alla BBC, la televisione britannica, e ha parlato anche di Brexit. Ha detto che non correrà per un terzo mandato, ma che continuerà a fare il parlamentare a Londra. Lo ricordiamo, Cameron nel 2015 ha vinto con una certa anche maggioranza un secondo mandato, quindi in questo momento la sua posizione è abbastanza solida, però il referendum appunto sulla Brexit, cioè sulla possibile uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, che si terrà in giugno, potrebbe comunque segnare il suo destino politico. Quindi ha messo le mani avanti, dice che non vorrà fare di nuovo il primo ministro per un terzo mandato, e però, parlando di Brexit, ha detto che sta cercando comunque di, se non altro, spiegare all'elettorato quali sono veramente le conseguenze di una Brexit, quali sono gli accordi che lui ha già ottenuto, ha già spuntato per ammorbidire alcune delle regole che l'Unione Europea imponeva a Londra e che a Londra non vanno più bene. Naturalmente la discussione continuerà da qui a giugno, e nei consueti question time che Cameron deve avere al Parlamento, tutte le volte che qualcuno gli chiede se lui si dimetterà in caso di un voto positivo alla Brexit, perché dopo aver raggiunto l'accordo a Bruxelles, Cameron si è detto chiaramente contrario alla Brexit, e lui ha sempre risposto, vedremo se continuerà a farlo: no, non mi dimetterei neanche se al referendum vincesse il sì alla Brexit, cioè la posizione opposta a quella che lui sta promuovendo. Torniamo un attimo in Germania e torniamo a un altro tema che purtroppo è tra quelli che mina la fiducia nell'Unione Europea, nelle sue istituzioni, ed è legato alle banche, le ba banche dei singoli paesi, ma anche il ruolo che ha la BCE. Sappiamo gli sforzi, le ipotesi, le utopie forse che ci sono di avere, per esempio, un unico ministro delle finanze, o almeno una politica finanziaria ed economica più omogenea, non soltanto una banca centrale europea e un governatore. Comunque, la questione delle banche, e in particolare quella delle banche italiane, era al centro di un articolo della Frankfurter Allgemeine Zeitung, che ha anche detto che, visto tutto quello che ha fatto il governo Renzi su questo tema, e in primis naturalmente ricordiamo il decreto salva banche varato appena prima della fine dell'anno per evitare di incorrere nelle norme dell'Unione Europea sul bail-in, sulle nuove norme sul bail-in, scrive la FAZ, Matteo Renzi si esprime volentieri sulle difficoltà di Deutsche Bank e mette in dubbio la stabilità del sistema bancario tedesco, ma la crisi bancaria italiana invece è altrettanto grave e di questa lui si dovrebbe occupare. Purtroppo era l'ultima segnalazione che riesco a farvi, però ritrovate alcune di questi temi sul sito di Radio 24 se volete riascoltarli in podcast, come vi dicevo, sul sito di Vox Europe e poi naturalmente anche su Internazionale, sia in edicola che sul loro sito. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.